l'ora esatta di Radio Etna Espresso. Buonasera, sono le 21:04 minuti, inizia il Marchi Club. Radio Etna Espresso presenta Marchi Club. L'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, Marchi Club, in diretta dal centro musicale Space Music a Cireale. Buonasera, buonasera a tutti voi che siete in ascolto di Radio Etna Espresso. Comincia una nuova puntata del Marchi Club. Io sono Carla Maugeri, come ogni martedì qui dalle 21 alle 23 in diretta dalla Space Music di Acireale, e sono in compagnia del mio co-conduttore Riccardo Trovato. Ciao, ciao a tutti, ciao Carla. Allora, carissimo Riccardo, questa sera Carla è sia conduttrice che anche alla regia. Proviamo a fare anche un po' di regia, perché il nostro caro Marco Bertani questa sera si è assentato per motivi suoi personali, e quindi cercherò di sostituirlo. Speriamo di non combinare nessun tipo di piccola gaffe, ma vabbè, il bello anche della diretta. Cominciamo una nuova puntata, ma io direi innanzitutto di ricordare quali sono un po' i nostri contatti, giusto perché il Marchi Club è uno di quei programmi davvero interattivi in cui voi che siete il pubblico e i nostri ascoltatori avete un ruolo più che attivo. E allora ci sono il 349-850-8509 per scriverci via WhatsApp. Ancora c'è il nostro sito www.radioetnaespresso.it e la nostra applicazione, basta scaricare Radio Etna Espresso dal vostro store gratuitamente per seguirci in streaming da tutte le parti del mondo. Ma ancora c'è la nostra pagina Facebook, non solo quella di Radio Etna Espresso ma anche e soprattutto quella del Marchi Club, perché cliccare un like davvero non costa nulla, ma avete la possibilità di rimanere in costante aggiornamento, di seguirci giornalmente per quello che riguarda la nostra programmazione, le anticipazioni di settimana in settimana che riguardano gli ospiti che vengono qui a trovarci, e avete anche modo di scriverci un messaggio tramite questo ormai notissimo e sfruttatissimo social network. Vuoi già annunciare, Riccardo, l'ospite di questa sera, proprio giusto per dire il nome e cognome, oppure aspettiamo? No, un assaggio va dato, come l'abbiamo fatto sempre, quindi non vedo perché non dirlo anche oggi. E allora la diciamo oggi, una proprio puntata al femminile. Ecco. Anche se in realtà la band che accompagna la nostra ospite sono tutti in realtà maschietti. È tutto il maschile, è già. E allora quest'oggi abbiamo davvero il piacere di avere una donna qui in studio con noi. Tra poco, vabbè, non è Roxanne, si chiama Sonia Costa, però adesso ci sentiamo Roxanne dei Police. A tra poco. Roxanne. Roxanne! qui al Marchi Club. Iniziamo così alle 21:10 questa nostra puntata del Marchi Club, giusto il tempo di salutarci e di introdurre quali sono i nostri contatti. E già da subito vi dico che oltre a quelli su Facebook, a WhatsApp, davvero al web, tutti i contatti possibili e immaginabili in maniera diciamo virtuale, noi gradiremmo anche se voi ci raggiungeste qui fisicamente alla Space Music di Acireale, questo centro musicale che ci ospita ogni martedì, perché siamo proprio in diretta e quindi venendo in via Sciarelle numero 93 avrete la possibilità di vedere non solo come si fa musica quella live, ma anche di vedere un po', di soddisfare la curiosità di vedere come si fa la radio, perché vi ricordo che questo format unisce insieme la diretta radiofonica a quella che è la musica originale dei nostri artisti che vengono qui ad esibirsi live, quindi è davvero un'occasione da non perdere. E giusto per parlare dell'ospite di questa sera, giusto, diamo qualche notizia. Ma sì, facciamo un po' come facciamo di solito, sembriamo al telegiornale. È vero, di introduzione. Allora, la nostra ospite, che è nell'altra sala, e quindi a breve sentirete la sua voce, è Sonia Costa, una cantautrice catanese. Le influenze sono marcatamente pop rock. Non manca però nella sua musica la voglia di sperimentazione, a volte di mettersi anche alla prova in contesti differenti. Ascoltando i suoi brani possiamo notare sicuramente delle melodie forti e accattivanti, una voce calda e corposa ma femminile. I testi forse autobiografici, ma questo lo chiederemo a lei dopo, o chiederemo se ci sono degli autori esterni che collaborano con lei, mettono comunque dei contenuti diretti che arrivano dritti all'orecchio dell'ascoltatore, ma introspettivi. Da oltre un decennio il nome di Sonia Costa gira negli ambienti musicali live. Pensate che nel 2009 ha aperto il concerto di Paola Turci. Diverse le partecipazioni a contest musicali, festival e manifestazioni, tra cui Premio Mia Martini nel 2006, semifinale di Sanremo Rock nel 2008, Lennon Festival nel 2009, Etna Rock nel 2009, selezioni di Sanremo Giovani nel 2011, e pensate, un suo video, Niente da perdere, va in onda su Mediaset Italia 2 nel 2013. Guarda, io davvero, cioè così, guardando solamente un'occhiata sulla pagina Facebook della nostra artista Sonia Costa, ci si rende conto che il suo curriculum artistico, perché poi lei ha una sezione proprio dedicata ed è giusto per ogni artista anche promuoversi in base a quello che è già stata la propria carriera e i progetti futuri, davvero sono rimasta piacevolmente colpita. Già ovviamente il nome mi era noto, come a tanti del catanese e non solo, ma anche a livello più transregionale direi, però è anche vero che lei, per essere comunque una giovanissima artista, è tra l'altro una bella donna, è il caso di dirlo, Riccardo, perché per una volta abbiamo una donna qui ospite in studio. Ma lei ci sta sentendo, sì, sa sì, quello che stiamo dicendo? E quindi davvero è un piacere. Allora a questo punto io direi di sentirla, Sonia. Ma buonasera. Buonasera a te. È un vero piacere. abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo dato informazioni corrette. Corrette. Okay, vuoi aggiungere qualcosa, bene. Direi, piuttosto. No, vabbè. Intanto volevo dirvi grazie per la possibilità d'essere qui. E poi che cosa dire? Insomma, mi racconterò pian piano durante questa Abbiamo serata. Abbiamo due belle ore piene, non solo di musica, perché quella ovviamente è un po' diciamo il fulcro del nostro programma, live ovviamente, questo anche giusto per ricordarlo, però abbiamo anche tanti minuti per chiacchierare. Ecco. Ma sai Sonia, intorno alle 22 conosceremo anche un'altra band che saranno ospiti però nostri telefonici, potranno venire qui fisicamente da Barletta e Gaggios, perché questa è un'altra piccola novità di questa seconda stagione del Marchi Club, e abbiamo così una chicca in più che è quella di un'ospitata tra virgolette, perché è telefonica, e quindi avremo modo anche di conoscere circa 10 minuti un'altra band che viene da un'altra regione d'Italia. Ma questa sera abbiamo te qui in studio, finalmente un'altra donna a tenermi compagnia, perché sai Sonia, io di solito sono sempre sola, cioè sono in minoranza. Eh no dai, stasera tutti non uomini, sei sola. Almeno stasera ti faccio compagnia. Dopo Rossella arriva Sonia, per fortuna, e quindi forse riusciamo anche a raggiungere la maggioranza. Sì, sei la seconda donna che viene qui in quattro puntate. Anche se tu sei accompagnata da tutti uomini, tutti maschietti. Sì, tutti maschietti. Allora io direi, senza tanti giri di parole, giusto per dare un assaggio ai nostri ascoltatori, d'altronde avremo davvero tanto tempo per chiacchierare, di iniziare a mandare il primo

Party Club, l'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, ogni martedì dalle 21 alle 23, Marchi Club. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight that feel and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always grow a Ricky Lake. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. And all the girls say I'm pretty fly. Era il 1999 con Pretty Fly for a White Gun. Gun, sì, vabbè, guy, stiamo qua, rischiamo di cadere. No, vabbè, scherzo, però sai, ormai c'era un grande artista, anzi in realtà oltre che essere artista era un grande scrittore, che era nato col il cognome di Gay, proprio scritto G-A-Y. In realtà quando scelse di diciamo un nome d'arte, cambiò la A con la U perché aveva paura, ma ti parlo, stiamo parlando davvero di tanti decenni fa, che quel guy e gay potesse un attimino essere un po' interpretato a doppio senso, comunque pregiudicare un po' la sua immagine. Tu che nome sceglieresti d'arte? Perché in realtà ti conosciamo come Riccardo Trovato, dal momento che anche tu sei un artista, sei un cantante. Oh, un artista. Faccio il pittore, molti lo sanno. Non ci ho mai pensato. Vediamo se entro la fine di questa puntata avrò questo lampo di genio e troverò da dirmi un nome d'arte. D'altronde io ci terrei a ricordare, scusando per fare proprio una parentesi sui Carbonica perché giusto e doveroso, che giusto settimana scorsa è uscito il vostro nuovo singolo in tutte le radio. Sì, scappo via, però non è il momento. Non ti sto per intervistando, eh? Non è il momento. Una piccola parentesi, ci sta, no. Dopodiché ovviamente torniamo alla nostra ospite, proprio al volo, giusto per chi è in ascolto, magari mentre sta su Facebook va anche a dare un'occhiata alla pagina di Carbonica. Dopo le 23, andate a cercare Scappo via su YouTube, insomma trovate qualcosa. Per il momento invece rimanete in ascolto con noi perché questa sera abbiamo Sonia Costa qui al Marchi Club. Cara Sonia, ci senti? Sì, ti sento. Aspetta un attimino, ok. Io direi giusto di presentare i ragazzi che sono lì in sala. Perché sì, è giusto presentare Sonia Costa, però questa sera non sei in solitaria, diciamo. Certo, sono con la mia band e ve li presento subito. Allora, alla chitarra Gabriele Cattano, al basso Carmelo Astuti e alla batteria Stefano Liberto. Che abbiamo sentito anche suonare, un po' improvvisare, abbiamo capito che abbiamo davanti dei bravi musicisti, ecco. Sì, sì. Perché chi era già qui alla Space Music di Acireale, ancora prima di iniziare alle 21 la nostra diretta, ha avuto modo di assistere anche quello un po' che è il soundcheck. È più che radiofonico, perché ovviamente magari abbiamo meno lavoro rispetto ai musicisti da fare, è anche vero che è bello godersi un po' quegli attimi di improvvisazione, la prova microfoni. È bello perché qui si respira un po' proprio quell'atmosfera da club. Voi come vi state trovando lì in sala? L'ambiente è bello accogliente, penso che già benissimo. Inizia anche a far calduccio là dentro. Il batterista sente caldo. C'è il climatizzatore acceso, l'ho acceso io poco fa, quindi cerchiamo male che di vada, abbassiamo un altro po' la temperatura. Va benissimo. Allora, così. Se voi ci siete pronti, visto che già sono quasi le 9:30, io vi inviterei a proporci il primo pezzo suonato live, perché qui sì. Ricordiamo, il Marchi Club nasce per questo, per offrire ai nostri radioascoltatori la musica originale dei nostri artisti che di volta in volta vengono qui a trovarci in sala ogni martedì. Quindi a te l'onore di presentarci, introdurci questo pezzo, ricordando che Sonia Costa e la sua band è qui questa sera con noi al Marchi Club. Allora, il primo pezzo è Niente da perdere, che è il pezzo che dà proprio il nome all'EP di cui avete ascoltato prima un altro brano. Niente da perdere, appunto, è il pezzo, diciamo, punta, che dà un po' anche senso a tutto l'EP. Ve lo facciamo sentire. Capita che ti sembra si fermi il cuore, e come di ghiaccio tu non riesca a sentire nemmeno dolore. Capita poi che una mattina ti svegli, senti tremare, ma ti accorgi che fuori c'è il sole e non fermerò nessun brivido, non nasconderò nessun dolore, ora che senza di te niente da perdere. Capita poi che tu non riesca a sentire neanche il calore di quel fuoco che sta per bruciare, e non fermerò nessun. Niente da perdere senza di te, niente da perdere, niente da perdere. Ora che senza di te sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido, mi sento grande, come una città, un gigante, acido suono, sento solo te, sento solo te, questo che cos'è, acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è, viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò, così lontano, non sono stata mai, non sono stata mai, già ripartirei, mi sento bene, un po' stordita, ma gioiosa, ma gioiosa, acida dentro, acida con chi, acida con chi, acido non è, acido giorno, mi rallegra, mi rallegra, questa acida, Carla. Questa canzone, diceva mio padre, che mi rappresenta parecchio. L'acidità. Io penso a un'altra cosa quando sento parlare di acidità, però probabilmente l'acidità mi fa pensare a problemi tipo la gastrite nervosa. È qualcosa di legato allo stomaco. Anche a me. Tra l'altro ci soffro, quindi ahimè, per i tipi un po' più ansiosi non è certo il massimo. Io invece stavo pensando una cosa. Sono le 21:33. Io inizio a avere fame e sete. Ecco. Siamo qui e prima delle 23 non possiamo uscire da qui. Diventa come una prigione. Dovremmo portarci da mangiare qui oppure aspettare fino alle 23 e andare da Sketch. Perché noi ogni sera, finito il Marti Club, abbiamo il nostro classico punto di ritrovo, che è appunto Sketch, caffetteria e fumetteria, che da questa settimana è aperto anche a colazione, quindi vi offrirà frullati, estratti preparati sul momento e tanti prodotti gustosi da forno, ma è aperto anche nel pomeriggio, perché caffetteria e fumetteria, ma anche punto di ritrovo per esempio per un ricco aperitivo, per una bevanda calda, avete voglia di bere una cioccolata o un tè caldo, e anche alla sera e vi offre i ramen, i panini Sketch, le insalate e un ampio menù. Tutti i venerdì sera da Sketch c'è musica live e quindi potete anche chiedere dei drink, delle birre a prezzi vantaggiosi, però soltanto se dite di aver ascoltato questo messaggio proprio al Marchi Club su Radio Etne Espresso e richiedete gratuitamente la tessera per avere degli sconti e promozioni sulle vostre consumazioni. Sketch Caffumetteria in via Felice Paradiso 58 da Cireale, online su Facebook e anche al sito www.sketchcoffeecomics.com. Questa settimana, mercoledì 29, quindi domani, Martin Romero ed Edoardo Musumeci in concerto, mentre venerdì 31 marzo gli Scagnozzi, Ozzy Osbourne Tribute Band. Beh, sicuramente noi venerdì, domani, ma anche venerdì faremo una capatina. Anche domani, sapete, sì. Edoardo Musumeci è il chitarrista dei Tinturia. Io ogni volta dico Timoria, non so perché li confondo. No, non c'entro nulla, solo perché comincio tutte e due con la T. Vabbè, prima o poi, sai, quando impari una cosa in maniera storta non c'è modo di correggersi. Ma ovviamente, però dobbiamo Martino dire Romero la verità, è conosciuto ai molti. Edoardo è più bravo del chitarrista dei Timoria. Timoria. Non si dicono queste cose che poi che poi ci accusano. No, ma sarebbe d'accordo anche il chitarrista dei Timoria se ci sentisse, insomma, direbbe ok, quello è più quasi bravo. Quasi, vabbè, è un grande. grande Edoardo Musumeci, ma anche Martin Romero, famosissimo in tutto il catanese. Ma si avvicina l'estate, siamo ormai a fine marzo e ci siamo fatti una gran panza che ecco, non si perché può, tra perché... birre e birrozze. Poi ci andiamo da sketch a fine serata, esatto. Però non è tanto domani... il problema questo, il problema è che il giorno dopo non fa... poi ci alziamo tardi e ti viene facciamo il senso una vita... di colpa e dici che faccio, dovremmo andare in palestra, dovremmo iscriverci. Tu bene o male sei in linea, io invece sto iniziando a creare una strana pancetta, occhio che... perché poi andando avanti con l'età, ancora tu sei giovane, giusto, però è meglio un po', come dire, iniziare a prevenire è meglio che curare. E allora quale altro metodo migliore se non iscriversi alla palestra Vigo School del maestro Antonino Mascoli, che è davvero un pezzo di storia a Cese perché ha più di 40 anni di esperienza nel settore, è stata appunto inaugurata quasi 40 anni fa e fu la prima palestra di Acireale. Dal 1 aprile alla palestra Vigo School e per tutto il mese una super promozione, un intero anno di iscrizione a soli 150 euro se ti iscrivi singolarmente e 250 se ti iscrivi in coppia. Ovviamente stiamo parlando di un abbonamento annuale in cui è tutto incluso: sauna, corsi di zumba, total body, pilates, step, programmi personalizzati in sala. Avete un accesso open e limitato tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 22.30. Potete quindi approfittare di questa promozione, 150 euro per l'iscrizione singola annuale, 250 per la coppia, a prescindere che poi ovviamente vi iscriviate con la mamma, col papà, col parente, con lo zio, col cugino, con l'amato, con l'amante o chi vogliate voi, è un prezzo sicuramente conveniente. La palestra Vigor School è aperta da Ciriale in via Bellini numero 18 e anche su Facebook la pagina Palestra Vigor School Acireale. Quindi accogliete questo come suggerimento. Bene, le palestre sono luoghi in cui si incontrano gli amanti. Ora le no, mogli, ma nel senso le che mogli nascono o i mariti amori. Non mandano più in palestra il marito alla moglie. Poi guarda, alla Vigor School c'è anche la sauna, quindi se avete così voglia di fare una sauna, ovviamente non pensate male, di fare una sauna con la vostra amica, con il vostro compagno, con diciamo, il vostro amato. Diciamo, se avete intenzione di fare una sana attività fisica, iscrivetevi alla Vigor School. Esatto. Va bene, dopo questa piccola parentesi, ovviamente ringraziamo anche e soprattutto il nostro Giuseppe Pandolfo, che stasera forse più delle altre ci sta supportando e portando, perché quest'oggi manca il caro Marco Bertani. Ringraziamo ovviamente il centro musicale Space Music che ci ospita ogni martedì. Ci ritroviamo fra un attimo, che dici? Siamo sempre qua in compagnia di Sonia Costa. Tra poco su Radio Etna Espresso, Marchi Club. La Sicilia traslochi. Trasportiamo delicatamente le vostre cose e case. Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, modifichiamo nei nostri laboratori mobili e cucine. Personale qualificato e la copertura assicurativa vi garantiscono la massima serenità in tutte le fasi del trasloco. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, scala mobile, viaggi settimanali da e per il nord. La Sicilia traslochi. Via Veneto 52 a Cireale. Per info www.traslochilasicilia.it. Acireale 095 89 16 45. Catania 095 36 54 45. Giarre 095 93 19 47. Andiamo a prendere un panino a stazzo? Col pesce spada? No, con la salsiccia, la carne o le polpette di cavallo, le cipollate. Panino Beach? Lo gusti in riva al mare, ma è con buonissima carne. Trinca di cavallo di vitello, salsicce di suino o pollo condita, puntine, involtini al pistacchio, tutto cotto alla brace a vista. Panino Beach, panineria, carnezzeria, insalateria, panini gustosissimi con 50 tipi di condimenti diversi, birre nazionali ed estere. Nuova copertura esterna, ambiente riscaldato, locali accoglienti e giovanili, dove puoi seguire anche le partite di UEFA Europa League. Panino Beach a Stazzo, in via Spiaggia 22. Per info o prenotazioni 095 87 18 80. Ci trovi anche su Facebook. Dal mese di aprile, aperto tutte le domeniche anche a pranzo. Non chiudete la porta alle opportunità. Con la Falegnameria Luca potete cambiare e coibentare la vostra casa con eleganti infissi esterni, risparmiando il 65% della spesa attraverso sgravi fiscali. Falegnameria Luca dal 1900.

This Way, Aerosmith. Era il 1986, questa ovviamente questa è la versione, rivista, rivisitata con il Run DMC. Sì, c'è quel video, ragazzi, che anche perché la versione originale degli Aerosmith risale al 76, se non erro. Sì, erano proprio 10 anni prima, se non vado errato anch'io. Beh, in realtà non c'eravamo né io né te, credo, quell'epoca. Sì, loro hanno poi rifatto questa versione in un'epoca un po' strana per gli Aerosmith. Erano usciti dalla band i due chitarristi, quindi Joe Perry e Brad Wilford, che adesso c'ha quel ciuffo bianchetto. Sì, era un po' particolare. Tra l'altro, credo ieri o l'altro ieri, Steven Tyler ha compiuto 70 anni. Caspita. Quindi, voglio dire, è ancora calca i palchi, perché fino a 2-3 anni fa era al come si chiama quel festival che fanno in America Latina, adesso non ricordo il nome, perché poi si chiamano tutti rock qualcosa, no? Rock and Ring in Germania e roba varia. Era al SWU, detto all'americana, adesso poi ha un nome per esteso, non lo ricordo a memoria, ma ancora calca i palchi alla sua veneranda età. Tra l'altro ha una dentiera bellissima. È l'ultima tournée degli Aerosmith. Quindi faranno. Certo, quest'anno verranno in Italia. Completeranno, diciamo, la tournée anche in Europa. Dicono che sarà il tour di addio alla musica, almeno live. Si chiama Aerovederci, qualcosa, non ho capito come è scritto, come si deve pronunciare, perché è metà in italiano. È metà in quindi hanno utilizzato rivederci mettendo aero all'inizio. Io ti dico, non voglio crederci, perché se penso che dopo, vabbè, i Black Sabbath, ma anche gli Aerosmith, smettono di fare musica dal vivo, capisco ovviamente l'età, per carità, dopo una carriera, una vita del genere, però un po' così mi intristisco. Dai, non ti preoccupare, avremo in futuro. Avrò te che mi canterai. No, ci sarà. D'altronde lo facevi una volta. Ci sarà Tiziano Ferro, questo a tenere alta. Per carità, grandi cantatori italiani, però vabbè. Per noi che abbiamo il cuore rock, giusto, Sonia? Sì. Per noi che abbiamo il cuore rock, è un po' diversa come cosa. Non tocchiamo però Tiziano Ferro, perché no, c'è una mia grandissima amica che ci sta seguendo, ecco. Ma io scherzo e insulto quindi tutti. Poi dicendo queste cose arrivano anche i messaggi, quindi aumentano, ecco, gli ascolti e la radio, quindi a volte picchia, dico cose scomode. Poi mi picchia. Vabbè, ma tu dai la colpa a noi, non preoccuparti. Okay. Vi ricordo quindi che c'è il 349-850-8509 per scriverci tramite WhatsApp e la nostra pagina Facebook Marchi Club, a cui potete anche mettere un like, su, non vi costa nulla, non vi si consuma il ditino, anzi rimanete aggiornati su quella che è la buona musica, quella originale, che ormai è difficile trovare in radio e specie suonata live in un format tuttavia notturno, perché voglio dire, andiamo in onda tra le 21 e le 23, quindi è uno spazio proprio dedicato ai nostri artisti, e questa sera alla nostra Sonia Costa. Carla, ma che notturno, ormai la gente sta su Facebook fino alle 4 di mattina. È vero, le 21 e non va a lavorare 23, l'indomani. È pomeridiano questo pomeriggio format. Giovani, dai. Ecco, ma ti ricordi pomeriggio, vabbè, tanti anni fa qui ad Aciriale c'era un'atmosfera diversa, si andava a ballare il pomeriggio, quindi almeno sotto una certa fascia di età, per chi era minorenne. E vabbè, tutto si evolve, ma la musica live, quella per fortuna rimane sempre un pilastro e non manca mai, specie qui a Radio Etna Espresso. Senti, cara Sonia, io parlo tanto, quindi adesso Sonia, io voglio far parlare un po' te. Sì, ecco. La domanda è una domanda cretina, ma abbiamo visto, appunto, c'è presentato tutta la band, sì, ma dove li hai pescati? Dove li ho pescati? Allora, con Gabriele e Carmelo ci conosciamo da tanto tempo, anche con Stefano, però Stefano nella band è una new entry, diciamo. L'ultimo arrivato? Sì, sì, sì. Con gli altri invece sono stati loro che hanno pescato me, veramente, durante una serata. Quindi ti hanno visto e si sono innamorati musicalmente, ovviamente, intendo? Mi hanno pescato loro, sì, e quindi niente, poi diciamo a me sono piaciuti e quindi li ho scelti come miei come compagni musicisti, come compagni d'avventura. Ho capito. Sai, Carmelo Astuti, l'ho conosciuto per sbaglio diversi anni fa. Allora, ci ritrovavamo in una In una serata che si svolgeva da Sant'Antonio, un paese etneo, Rock Interland, suonavano diverse band. E allora è stata chiamata la mia band a suonare due ore prima dell'esibizione, perché una band si era tirata fuori. Eravamo senza bassista. Ci hanno presentato a Carmelo. E Carmelo è salito sul tremendo, palco no? con noi e ha suonato con noi come se nulla fosse. Lui se la ricorda questa esperienza, almeno che ci capisco che non abbiate tutti i microfoni lì, però un cenno. Se lo ricorda, sì, certo. Sì. Quindi è sotto i baffi. Senti, Sonia, adesso è giunto l'altro momento, perché ne avremo quattro momenti in queste quattro due ore. Live. Il primo già l'abbiamo vissuto, sì. Questo è il secondo momento live. Ti chiedo di nuovo di presentarci il brano, dirci dove è contenuto e qualsiasi cosa legata al brano, e anche di suonarlo, ovviamente. Sì, allora il prossimo brano fa parte sempre dell'EP Niente da perdere, EP uscito nel 2013, che contiene appunto quattro tracce più una. Una perché sarebbe Dimmi solo una parola in versione spagnola, perché ho tentato anche di esportare qualcosa fuori. Comunque invece quest'altra traccia è Cenere, ve la facciamo sentire subito. Ok. Cielo, cenere,

quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due. Quando ognuno da sé nella sua solitudine e regala il suo corpo, non sa cosa chiede, chiede, chiede, chiedere. Fammi volare, le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare, lui che scende e che sale e si sente l'America. Fammi l'amore, lei che pensa ad un altro e si inventa l'America. Sì, fammi l'amore, e fatto sempre più forte. Qui ancora al Marchi Club, siamo davvero in ardo. Siamo ancora eccoci, qui, inizia eccoci, la nostra eccoci. Seconda ora qui al Marchi Club. Io direi proprio al volo di ricordare quali sono i contatti, perché c'è il 349-850-8509 per scriverci tramite WhatsApp. C'è la nostra pagina Facebook, quella del Marchi Club. E poi ancora... ci sono tanti modi per ascoltarci in streaming ormai da ogni parte del mondo, basta avere un dispositivo fisso mobile e un minimo di connessione internet, e quindi c'è il nostro sito www.radioetnaespresso.it e c'è anche la nostra applicazione, quindi basta andare nel vostro store e scaricarla gratuitamente tramite la dicitura, il nome Radio Etna Espresso, e davvero potete seguirci da ovunque. Ma soprattutto ci tengo a invitarvi qui a venire fisicamente alla Space Music di Aceiale in via Sciarelle numero 93, proprio perché questo format innovativo, nuovo, diverso che Radio Etna Espresso vi propone coinvolge anche voi. Avete modo di vedere un po' come si svolge la diretta radiofonica e come i nostri artisti hanno davvero la possibilità di suonare qui dal vivo, offrendoci la loro musica del tutto originale. Ma caro mio Riccardo, io che parlo sempre, sempre, sempre, mamma mia, non ti lascio mai spazio. No vabbè, ma a me fa piacere sentirti parlare, perché a me tocca un po' il lato quello dei contatti. Sei più pratica, mi piace proprio sentirti parlare, dire, dare il time, la pubblicità, gli sponsor. Dovrei fare un po' le televendite come mi suggerivi tu qualche tempo fa. Sì, devi fare qualche colloquio con Mastrota. Lui sicuramente ti darebbe i sbocchi giusti. Ma sai quanti soldi guadagnava lui con le televendite? Milioni e milioni lo pagava. Ma ancora non le fa più? Guarda, io ogni tanto seguo i canali un po' sul 500, 700 e qualcosa. Ora mettono le signorine tutte sexy. Sono tutte bionde, quindi io già sono scartata a priori. Sì, sì, ho visto. Ormai sembrano programmi erotici queste televendite. È vero. Poi sai quelle così che si sdraiano sul materasso, lo accarezzano, lo riaccarezzano. Sì, ultimamente devo dire si strusciano sulle tende. Mi è capitato spesso di guardare pubblicità di materassi e poi ho capito il perché, ho detto guarda, mi hanno colto con guarda ormai mi hanno colto con l'inganno. Vabbè, facciamo una piccola parentesi un po' così giusto per scadere un po' sul basso, però una volta andavano in onda la notte quei programmi col numero in sovraimpressione, ora mandano ragazze... le televendite adesso direttamente. Mandano le televendite, sono leggermente più vestite ma l'effetto è sempre quello. Sì, per sempre quello. Tengono diciamo il chi guarda la TV ancora più ancorato. Cara nostra Sonia, sei ancora lì? Sonia, ci senti? Ci sei? È un attimo, perché questo è anche il bello della diretta. Siamo in collegamento con l'altra sala dove ovviamente sono nostri ospiti i ragazzi. E quindi qui è tutto live. Quindi se sentite un minimo di rumore di sottofondo, se sentite, non so, il nostro jingle, io che vi do il time, nel frattempo vi racconto stupidaggini, perché poi vabbè, in queste due ore di programma davvero succede di tutto. Tra l'altro qui c'è gente che scorrazza in corridoio, proprio perché il Marchi Club è interattivo. Non ci siamo solamente io e Riccardo Riccardo qui, so che il radio è diverso, magari va solamente quello che vi arriva in audio, però qui davvero è l'atmosfera quella di un club. Succedono tantissime cose, perché non è la classica, neanche il classico programma radiofonico. Abbiamo una sala, è un centro musicale, la Space Music, quindi ci sono i ragazzi che suonano, c'è il nostro fonico che viene ogni tanto qui e ci rimprovera. abbiamo anche degli ospiti questa sera, oltre quelli in sala, altri ospiti. Anche perché c'è chi viene proprio come diciamo pubblico per fare anche compagnia alle ragazze. Cioè abbiamo pure il pubblico durante i gruppi, mentre i gruppi suonano live, i nostri ospiti ovviamente. E vi ricordo che ogni martedì siamo in onda tra le 21 e le 23. È giusto per avere delle informazioni, delle anticipazioni o semplicemente riguardare le nostre dirette live o guardare le foto, gli scatti di ogni puntata, potete andare sulla nostra pagina Facebook Marchi Club. Allora io direi di ascoltarci un altro pezzo della nostra Sonia Costa, che si intitola Con i tuoi occhi. Magari tra un attimo anche le chiediamo proprio perché questo titolo, magari dietro c'è una canzone amorosa, un sentimento, qualcosa di romantico. Oggi mi va così, in vena un po' romantica, Riccardo, diversamente dal solito. Che dici, ce la ascoltiamo? Stavi dicendo diversamente da te, da me, riferendoti a me. No, no, assolutamente. Allora, Sonia Costa con i tuoi occhi qui al Marchi Club. Vorrei che fosse un solo odore, e mentre mi cerco ti vorrei ritrovare. Con i tuoi occhi riesco a vedere che la paura è voglia di osare. Ma non posso restare se mi lasci morire, perché ancora grande la mia voglia di volare, volare. Dalle finestre entra profumo, mi sporgo a sentire, vorrei cadere, ma non voglio restare se con i tuoi occhi qui al Marchi Club. Cara la mia Sonia, ascoltiamo la tua voce anche, diciamo, è un pezzo registrato, sì, lo diciamo, sì. Lo passiamo qui in radio, ma avremo modo proprio tra pochissimo di ascoltarlo, di ascoltare di nuovamente la tua voce live. C'è il nostro caro Riccardo che forse ha qualche domandina giusta pronta per te, perché noi qui ogni tanto stuzzichiamo i nostri occhi. Dimmi dai no, domande di rito un po'. Io ascolto i brani, seguo con attenzione tutto quello che fanno i nostri artisti prima di venire qui, quindi quando chiamiamo un artista per ospitarlo, io in realtà ho studiato già. Ha fatto i compiti a casa. Esatto, ho fatto i compiti a casa. Quindi anche ora perché ci occupiamo della. Domande te le faccio io. Ecco, per vedere se bello, invertiamo i ruoli quest'oggi, benissimo. Per quello che so, insomma, proverò a rispondere. Allora, una domanda è quella legata sicuramente ai brani che stiamo sentendo. Sì. I brani, chi li scrive? Ti avvali, vi avvalete, insomma, coinvolgo anche i ragazzi. Sono miei brani, sono scritti da me. Quindi sono dei brani in molti casi credo autobiografici oppure quasi sempre sì, sono comunque cose che ho vissuto o io in prima persona o comunque che ho visto vivere a chi è che mi sta vicino, comunque situazioni che prendo a cuore, diciamo. Vabbè, classica ovviamente domanda di riso. Senti, un'altra cosa ti chiedo. Anche no, perché dico, l'ispirazione a questo punto ovviamente viene da cose molto vicine a te. Sì, di solito sì. Ah, non avevo capito che gli stavi facendo una domanda, una no, perdone, domanda rapidissima. Io così ogni tanto mi inserisco. Sonia risponde in modo breve. È conciso, ma diretta, va dritta al sodo e ti dà la risposta. Io so, avendo un po' cazzeggiato sul web, si dice così, anzi su YouTube, ho visto qualcosa che ha a che fare con Patti Pravo. Sì. Ma che c'è qualcosa che vuoi legame raccontarci? Forte, mi sa. Sì, beh, diciamo che l'anno scorso abbiamo partecipato a un contest che si chiama Risuoni, un contest per tribute band, nonostante noi non siamo una tribute band, però siccome io ho questo forte legame con questa grande artista, ho voluto sperimentarmi in questo campo e quindi abbiamo portato appunto sì, abbiamo partecipato portando appunto diversi brani di per Patti esempio Pravo. Per esempio? Sì. Per esempio, la bambola, uno dei pezzi più, diciamo, più vabbè, certo, belli, più forti. Ma di so Patti anche Pravo, che tu hai avuto modo di incontrarla, perché sì, proprio spulciando su Facebook, sì, sulla sì, tua sì, pagina Facebook, possiamo ricordarlo, d'altronde è pubblica, basta cercare Sonia Costa. Sì. E ho visto questo scatto, te con un sorriso lo bellissimo, anno, perché sì, immagino l'emozione. È venuta qui. Un'emozione fortissima, perché io comunque sono cresciuta con anche con i suoi brani, quindi insomma, un mio mito da sempre. Certo, è stata è un'emozione una veramente ma grande. Su YouTube io ho trovato qualcosa. Cosa c'è su YouTube? Dillo tu. Su YouTube c'è una c'è che cosa c'è? Io c'è ho trovato questo brano ho trovato questo brano. Sì sì sì, c'è un video che non è un video, diciamo, è sì, una, okay, però potete una, ascoltare il una brano. Mia foto, diciamo, ecco. Ecco, poi potete ascoltare il sì, brano. Ecco, questo volevo dire, quindi magari chi ci ascolta pensa, ok, c'è questo legame, tributano quest'artista, però dove possiamo ascoltare qualcosa? Effettivamente abbiamo qualcosa da ascoltare direttamente su YouTube. Sì, sì, sì. Senti, ma cosa ci suonate adesso? Cioè, ma sai che vi suoniamo la bambola? Bruciapelo, cioè, ve lo chiediamo. Noi così di che parliamo? Beh, che ci suonate? Forse vi suoniamo la bambola. E io volevo arrivare proprio qui. Ma io direi che a questo punto ce la godiamo scegliamo insieme. Scegliamo la bambola, sì sì. E girare come fossi una bambola, poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te. Ragazzo no, del mio amore non ridere, non ci

Al Marchi Club, questo è il suo nuovo pezzo, I Can't Stop Thinking About You. Qui al Marchi Club siamo ancora in onda per un'altra abbondante mezz'ora. Vi avevamo giusto anticipato durante la prima parte della puntata che quest'anno abbiamo davvero una chicca, che è quella di ospitare non solo i ragazzi, le band o gli artisti, anche solisti che vengono qui a trovarci fisicamente in sala, ma anche delle band che in realtà provengono da altre regioni dell'Italia in diretta telefonica. Diciamo che abbiamo pescato diverse realtà musicali e le ospitiamo telefonicamente. Questa sera ospiti di Marchi Club abbiamo i Gaggios da Barletta. Al telefono Luca. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Oh, sembra che hai un accento milanese qui in radio, però in realtà vengono da Barletta, quindi sono pugliesi. In realtà parlando proprio un attimo fa ho detto beh, questo è di Milano o almeno originario, invece no. Magari sono di Milazzo, che è diverso. Senti un po', Luca, noi abbiamo curiosato un po' sulla vostra pagina, abbiamo visto un po' di cose che avete fatto, sappiamo che avete anche condiviso qualche annetto fa anche il palco con i Litfiba. Sì, nel 2012, anzi a ritroso nel 2010, perché avendo fatto un concorso per Virgin Radio, era il periodo del Grande Nazione Contest, da 700 band siamo riusciti ad arrivare tra i primi 5, quindi suonare davanti a loro all'Hard Rock Café di Firenze, e una volta che ci hanno conosciuto e per fortuna apprezzato, ci hanno chiamato a suonare prima di loro al Viper Theater di Firenze nel 2012. Quindi una bella esperienza di certo. In qualche modo sono legato io personalmente ai Gaggios, anche se fisicamente non li conosco, in quanto in qualche modo ci siamo ritrovati a lavorare, possiamo dire così, per il Litfiba riguardo alla compilation celebrativa di 30 anni 17 Re, e loro hanno hanno registrato un brano. Vuoi dirci tu quale brano? Gira nel mio cerchio. Che pensavo che non lo sapevi. Ho detto ora non risponde, lo dico io. Se l'è dimenticato. No, sto scherzando. È che l'orario è un po' tardo, giustamente, ogni tanto un po' voi la stanchezza. Perché Luca doveva essere nostro ospite con i Gaggios alle 22, però stava dormendo. L'abbiamo beccato che stava dormendo e quindi ti eri appeso l'altro. Abbiamo telefonato. Purtroppo è la triste verità dei lavoratori, che chi si alza alle 5:30 approfitta di studiare. Ecco, e quindi c'è davvero da comprendere. Noi qui scherziamo sempre, certo. Figurati. Questa sera vi faremo sentire, vi faranno sentire un brano, i Gaggios, in realtà non dal vivo, qui insomma è un programma, Luca, in cui noi ospitiamo le band dal vivo, quindi abbiamo un centro musicale, una sala, i ragazzi suonano, però mandiamo anche dei brani dal database, il programma ha diciamo un'attitudine molto indie, indipendente, quindi anche musica come la vostra, come quella di altre band che insomma lavorano parecchio, lavorano più diciamo dei big, investono su se stessi. Questa sera vi faremo sentire un brano dei Gaggios che si intitola Zingara dell'Est. Abbiamo anche un videoclip, vero Luca? Sì, il videoclip è uscito, il singolo si chiama Rebecca, Zingara dell'Est, ed è uscito proprio venerdì scorso con diciamo il videoclip da noi girato a Trani, che è vicino Barletta. È stata veramente una bella esperienza, secondo me abbiamo azzeccato anche la storia con un ambient un po' anni 50 di questa zingara che in pratica fa una vita che non vorrebbe fare, vide negli occhi della gente quello che lei in realtà non vorrebbe le dire, però alla fine riesce a trovare tra virgolette l'amore, quindi a lieto fine. È una storia a lieto fine. Un lieto fine un po' velato, diciamo, come Rock insegna, non c'è un finale scontato, l'abbiamo lasciato libera immaginazione, poi questo è il bello dell'arte. Quindi io l'invito che faccio a tutti gli ascoltatori è quello di andare a cercare intanto la pagina Facebook dei Gaggios, quindi scrivete bene. Facciamo lo spelling. G-A-D-J-O-S. Quindi su Facebook, poi avete anche un sito? Avevamo un sito che però abbiamo temporaneamente sospeso. Vabbè, diciamo Facebook è un po' lo strumento di contatto Facebook, più con il vostro Facebook, pubblico. YouTube, Instagram, ecco. E YouTube. YouTube, andate a cercare sicuramente tutti il loro video. Io già l'ho visto, anzi lo abbiamo condiviso questa sera sulla pagina ufficiale di Marchi Club. Io direi, Luca, di salutarci e ascoltiamo il vostro brano. Un abbraccio, speriamo di incontrarci fisicamente presto. Speriamo davvero, guarda. Grazie per essere stato anche tu, a nome della tua band, nostro ospite per questa puntata del Marchi Club, e ci salutiamo ascoltando proprio questo pezzo dei Gaggios. Rebecca, Zingara dell'Est. Un abbraccio a voi. Ciao Luca. Ciao ragazzi, ciao. Anche i suoni ed hai gettato nel fuoco la parte più vera di me. Femmina, so che ci hai preso gusto, ma ti è sfuggita di mano l'occasione della felicità. Felicità. Ma poi come una rosa mi tolsi quella spina, deciso più che mai, afferrandoti dei fianchi, lo zingaro ero io, il re della baracca, e lei mi gridò, ora basta, solo il mio viaggio. Con Zingara dell'Est, tratto da Rebecca, giusto Riccardo, o mi sbaglio? Rebecca Zingara colpi. Dell'Est. Ah, Rebecca, ecco, vabbè, è il nome della Zingara. Niente, io il già nome della Zingara. Inizio a perdere un po' di colpi. È sì, insomma, abbiamo ascoltato un brano di una band originaria di Barletta, quindi di Puglia, quindi del sud un po' come noi. Loro sono i Gaggios e il singolo che abbiamo ascoltato è Rebecca Zingara dell'Est. Ma sai perché inizio a perdere colpi a quest'ora? Perché inizia a venire fame? Fame e sete, io sete. Io credo che al di là, vabbè, delle grandi radio nazionali in cui sete si va in onda. Sete perché non posso mangiare più, perché sì, mi sta crescendo la panza. La me panza. Sono accorto. fatto oggi, mi guardavo allo specchio di profilo, ho detto sta storia non va bene, l'età mi sta lasciando dei segni già sul mio corpo. Ma tu che tipo di segni vuoi? Quelli del grasso, quelli del, sai, la fossetta del muscoletto? Cosa preferiresti? Meglio il muscoletto. E allora cosa si fa per avere il muscoletto? Tu sai quelli belli palestrati. Bisogna faticare, fantastici. I palestrati vanno in palestra. Non c'è un sistema per stare a letto e diventare. Tu ci vai o no in palestra? Fisicato. No, ma penso di iscrivermi presto, anche siamo a marzo, non so neanche se ci arrivo a sistemare i danni fatti da Natale, adesso da Pasqua. Ci arrivi, aspetto sai l'ora perché? Pasqua, no? O provvedo prima di Pasqua. Ma guarda, io direi provvedi prima di Pasqua e ti spiego perché. Perché alla palestra Vigor School del maestro Antonino Mascali, che è un pezzo di storia del mondo dello sport e del fitness accese, proprio perché sta per compiere 40 anni, dal 1 aprile per tutto il mese avrai una super promozione. Se ti iscrivi singolarmente paghi un intero anno a soli 150 euro, mentre se ti iscrivi in coppia entrambi chi si iscrive avrà un anno di palestra a soli 250 euro. Questo prezzo è all inclusive, quindi corsi di zumba, sauna, total body, pilates, step e tanti altri corsi, se non anche ovviamente le schede personalizzate, le diete personalizzate. È l'accesso open, quindi dalle 9.30 alle 13, dalle 15.30 alle 22.30 tutti i giorni la palestra è a tua disposizione. Un prezzo davvero piccolo per un'iscrizione anche in coppia, quindi a prescindere che tu sia, non so, con l'amico, con l'amica, col fratello, con lo zio, perché no, con un cugino. Non importa che tu ti iscriva soltanto col fidanzato o con la fidanzata, puoi anche andare con l'amico, il prezzo è sempre di 250 euro. Quindi per tutto il mese di aprile alla palestra Vigor School di Acireale è in vigore questa promozione. La palestra si trova in via Bellini numero 18 ad Acireale e sulla pagina Facebook palestra Vigor School Acireale. Ma siccome io così ho ancora un po' di fame, parlando poi di palestra, no? Uno pensa a faticare dopo la palestra, però dopo la palestra che bisogna fai? Andarsi a rifocillare, no? Perché poi in realtà uno si iscrive in palestra per mangiare di più, vabbè, diciamolo, è così, su. Esatto, perché se vai in palestra puoi mangiare di più, puoi bere anche di più, è vero, ma è tutto cosa un si fattore bere? Di compensazione. Io di solito vado allo sketch dopo la dopo trasmissione, dopo il Marchi Club, però ormai è il nostro punto di ritrovo, sì, è così, diciamo che dopo ci andiamo sicuro. È vero. Io so che fanno anche musica live allo sketch. Sì, perché da sketch. Carla, tu sei troppo brava. Allora, non c'è un però. Dimmi cosa possono trovare le persone allo sketch e dillo anche a me, perché io ci vado soltanto il martedì sera dopo tu la trasmissione. Tu ci vai solo il martedì sera, ma devi sapere che sketch è caffumetteria e fumetteria, quindi è aperto a colazione. Puoi andare a prendere un frullato, un estratto che ti viene preparato sul momento, oppure dei dolci da forno, quindi cornetti e colazione, ma anche il pomeriggio è aperto perché caffetteria e fumetteria ed è soprattutto un punto di ritrovo per i ragazzi che vogliono gustare un tè caldo, una cioccolata o un caffè insieme, ma anche alla sera, che è il nostro momento preferito per recarci da sketch, puoi mangiare i ramen, i panini sketch, le insalate e tante altre cose che troverai in menù. Tra l'altro tutti i venerdì sera musica live, ma non solo, questa settimana avremo Martin Romero quindi mercoledì domani 29 possiamo uscire di nuovo, domani possiamo andare da sketch, sì, e insieme a Edoardo Musumeci. Invece venerdì 31 ci saranno gli Scagnozzi, Ozzy Osbourne Tribute Band, ma non solo. Se vuoi prendere una birra o un drink, un cocktail durante la sera, basta dire di aver ascoltato questo messaggio su Radio Etna Espresso durante il Marchi Club e potrai avere la tessera sconti e promozioni in omaggio, quindi non la paghi, è gratis, in più avrai degli sconti e delle promozioni su ogni consumazione tutte le sere. Quindi il mercoledì e il venerdì ve ne andate a live, vi fate la tessera, dite di noi e ascoltate il live, vi potete ubriacare con moderazione, con moderazione. Magari andate a piedi meglio, insomma lo sketch è un punto di riferimento da Acireale, un piccolo tempio della musica live adesso, In via Felice Paradiso 58 da Acireale, online anche su Facebook e al sito web sketchcoffeecomics.com. siamo stati bravi, dai, su, siamo stati abbastanza bravi. Beh, noi invitiamo un po' a mangiare, un po' a fare palestra, però alla fine compensiamo, poi qui c'è la musica live, come si suol dire dire ci facciamo una bella vita, o sbaglio? Meglio di così, insomma. Torniamo alla musica, ci ritroviamo giusto tra un attimo. Ci sono i Timoria con Ora e Per Sempre. Di musica live in diretta radio su Radio Etna Espresso ogni martedì dalle 21 alle 23 Marchi Club. Ma tu ce l'hai l'Ecology Dry? No, non è solo un'asciugatrice. È un nuovo sistema igienizzante che toglie tutti i residui, anche di sapone, che restano sulla nostra biancheria dopo lavata. Bastano solo 5 minuti di Ecology Dry per avere molti dei vostri panni pronti da stirare o per un'asciugatura rapida. Ecology Dry penetra nella tramatura dei panni, rendendoli più morbidi, attraverso il processo di ultracentrifugazione, circa 3 volte più potente di qualsiasi lavatrice. Ha un sistema TBS per la sicurezza e, a differenza di un'asciugatrice che ha bisogno di un ciclo di almeno un'ora con un consumo medio di circa 30 centesimi a ciclo, Ecology Dry consuma circa un centesimo a ciclo. Per info chiamalo 095 779 2512. Gama Group 095 779 2512. A tutto l'equipaggio dell'astronave, siamo entrati nell'atmosfera terrestre. Destinazione Simpli, punto Simpli, Simpli City, Iper Simpli e Ocean. La forza di gravità ha schiacciato i prezzi. Da noi il risparmio ha superato ogni confine. Dal 21 marzo al 2 aprile c'è il Big Bang. Sono nati i risparmi stellari. Grana Padano DOP stagionatura 16 mesi a soli 8,90 euro al chilo. 4 flaconi di detersivo liquido lavatrice Dixan da 21 lavaggi a 9,90 euro. Ma è roba dell'altro mondo. Offerta valida nei punti vendita aderenti all'iniziativa. Non chiuderti in difesa. Vai all'attacco. La pubblicità resta sempre l'anima del commercio. La pubblicità non è una spesa superflua. La pubblicità evidenzia le qualità della tua azienda e le tue motivazioni. Chiamaci. Radio Etna Espresso 095 89 46 16. Vai all'attacco. Su Radio Etna Espresso, Marty Club. Quel punk rock un po' demenziale dei Blink lo passiamo anche qui al Marchi Club. Demenziale intendo come atmosfera, però. Radiofonico però, possiamo dirlo. Da questo punto di vista non hanno sbagliato nulla. Hanno avuto quel loro momento, poi si sono persi un po'. E vabbè, quanto avranno fatto? 1-2 album, credo. Probabilmente di più, però quello che noi conosciamo è fondamentalmente due, questo. Pezzi. Oltretutto, alcuni di questi brani sono diventati celebri grazie a un film, American Pie. A cui tu sei molto affezionato, no? Nel senso che capita di che tu lo nomini ogni tanto. Sì, ricordo questo film. Ci sono delle scene come quello della torta di mele che sicuramente sono entrati nella testa di molte persone della mia generazione, quindi dei trentenni o poco più che trentenni, perché... Ma guarda, anche più piccoli, ti do conferma, perché anche i ventenni se lo ricordano più che bene, perché vabbè, ci siamo passati tutti, l'abbiamo davvero visto tutti quanti American Pie. Ma al di là di questa roba un po' così, vabbè, ogni tanto noi ci piace, ci anche... siamo dimenticati forse che in sala abbiamo degli ospiti e siamo dei maleducati. Non ci lasciate da soli, siamo qui. Perché? Per chi magari ci stesse ascoltando ma non è qui proprio presente fisicamente, alla Space Music diciamo che siamo un po' effettivamente divisi in due, nel senso che da un lato c'è la regia radiofonica e dall'altra ci sono i ragazzi che per ovvie esigenze diciamo tecniche sono in sala montati con gli strumenti, gli amplificatori accesi e soprattutto suonano live. Ci teniamo sempre a sottolinearlo perché è la nostra caratteristica. Questa sera, per chi si fosse sintonizzato da poco, abbiamo Sonia Costa e tutta la band che la accompagna. Senti, Sonia, una domandina. Sì. Vogliamo però che stavolta parli di più, perché di solito ti vediamo così trattenuta, come se noi ti sintetica. Limitassimo in qualcosa. È una no. sua, un suo bellissimo pregio, ce l'avessi io. Che proprio sono al contrario. Sono prolissa nelle canzoni, magari. No, dai, le abbiamo sentite, sono molto anche radiofoniche, quindi sicuramente chi ascolta di solito Radio Etna Espresso si sarà trovato a suo agio, non avrà neanche capito che si trattava appunto di un artista catanese, perché di solito siamo abituati a sentire cose in radio che devono venire chissà da dove e non si valorizza spesso quello che abbiamo invece qui a due passi. Vero, senti, vero. Sonia, proprio parlando di valorizzare quello che abbiamo a due passi, diciamo quello che oggi è la musica live a Catania e dintorni, ma non solo, in Sicilia soprattutto, vede diciamo uno scenario assai diverso da quello che magari c'era alla fine degli anni 90. C'erano locali che abbiamo, io personalmente ho visto morire ormai perché erano agli sgoccioli, come il Taxi Driver o altre realtà che proponevano spesso proprio la musica originale, quindi chi meglio di artisti come Carmen Consoli o altri si sono ritrovati a suonare in queste location. Sì. Oggi è lo scenario parecchio diverso. La domanda che ti faccio oggi, non spaventarti, no tranquilla. Oggi per te com'è come ti trovi con quello che oggi è l'offerta musicale, quindi che tipo di rapporti hai con i locali? È facile trovare posti in cui andare a suonare, oppure bisogna ogni volta andare a reinventarsi con altre cose? Allora, diciamo che non è così facile suonare, o perlomeno si può suonare, però i gestori dei locali comunque non rendono la vita molto facile da questo punto di vista, perché non c'è la voglia, comunque non si punta a cercare l'artista, diciamo, ma chi ti porta gente, chi è che ti riempie il locale, quindi non purtroppo c'è una mentalità che non mira sicuramente a valorizzare l'arte e a scovare l'artista. Questa è una grossa pecca. Intendi dire un po' che a volte capita di sentirsi dire: beh, quanta gente porti? Purtroppo spesso. Da parte ovviamente del gestore del locale. Ma io infatti evito questi posti, li evito. Io onestamente preferisco suonare meno piuttosto che stare comunque a queste regole. Infatti, è una giusta prospettiva, sicuramente questa. Mi metto dall'altro lato nei panni dei locali. Oggi forse c'è un disinteresse da parte del pubblico la musica live, e quindi magari vanno laddove trovano quello che già conoscono, che sanno. Trovare un artista che fa musica originale è sempre un dubbio, quindi molti non sanno come approcciarsi a questo, o perlomeno no, nel dubbio andiamo a sentire quello che già conosciamo, non ci apriamo nulla di nuovo. Questa è una cosa sbagliata. Ma sì, magari certo, anche gli stessi gestori dei locali spesso e volentieri hanno un po', non dico di pregiudizio, però magari di diffidenza per quegli artisti che fanno musica loro, però magari loro non la conoscono, non hanno il seguito di una tribute band apparentemente, almeno stando al loro ragionamento, e quindi mettono in dubbio la potenziale serata, diciamo un po' l'evoluzione che potrebbe, sì, infatti, prendere. Senti Sonia, ma da qui a breve dove suonerete? Da qui a breve, ancora tu dici come date stabilite? Sì, anche, anche perché... No, ma ancora non possiamo dare nessuna data. E allora le troveremo momento. Dove? Le troveremo sulla pagina sia Sonia Costa che sulla pagina Pazza Idea, che è il nome comunque del tributo. Non è tributo. Diciamo che è rimasto questo nome, ma non facciamo solo brani di Patti Pravo, facciamo tutti i brani italiani del passato in chiave rock, quindi brani di Mina, Patti Pravo, appunto, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia. Senti, Battisti. Sonia, noi siamo giunti quasi alla fine della puntata, quindi un saluto che vuoi fare al pubblico e poi chiaramente ci fai sentire, con un pezzo live, ci fai sentire l'ultimo brano, ci fate sentire l'ultimo brano. Sì, allora io saluto e ringrazio tutti coloro che ci stanno ascoltando e ringrazio voi per averci dato questa bella possibilità. Grazie a voi per essere stati qui. Allora io direi, ti lascio ancora una volta la parola proprio per salutarci questa sera con la musica di Sonia Costa, quindi introducici questo pezzo e lo ascoltiamo qui insieme. Vi salutiamo con questo brano che si intitola Amami Così, che è un pezzo che ho scritto nel 2005, quindi ben 12 anni fa, però è uno dei pezzi a cui sono più legata e quindi lo propongo sempre. Amami Così. Comincio da qui, comincio da te, ti racconto di me, di quella bambina che arrossiva sempre e che volava con la mente. Comincio da qui, comincio da te, ti racconto me. Di quando rincorrevo il pallone, di quando davanti al mare mi domandavo cos'è. E adesso mi presento e te lo dico così, per come lo sento. Amami così, e amami di più, anche se non sono esattamente come volevi tu. Prendi la mia mano, anche se hai paura, perché ti voglio con me nella mia avventura. Comincia da qui, comincia da me, non cercare un perché. Seguo semplicemente il mio cuore, ma ho bisogno anche di te per poi lasciarlo andare e vivere. E ascolta quel che ho dentro, io te lo dico così, per come lo sento. Tu Sonia Costa con Amami Così, e lei la nostra ospite di questa sera. Ci siamo appena salutati perché abbiamo un po' concluso queste nostre due ore insieme anche questo martedì qui al Marquee Club. Devo dire, Riccardo, che davvero siamo proprio in estremi, siamo arrivati ai saluti finali. Io ringrazio te per essere stato mio compagno di avventura anche questa sera durante questa seconda stagione del Marquee Club. E io faccio lo stesso, cioè non è che ringrazio me, ringrazio te. Grazie, ci ringrazio. E ringrazio chiaramente a tutti i nostri ascoltatori e a tutta la gente che insomma lavora qui dentro per noi, perché stasera davvero ci hanno aiutato. Marco Bertani è stato assente, sì, quindi abbiamo cercato di cavarcela. È chiaro, se fosse per me le gaffe sarebbero una dopo l'altra. Allora, quindi i tecnici Giuseppe Pandolfo, che è qui con noi in sala. E ovviamente diamo appuntamento ai nostri ascoltatori, perché martedì prossimo saremo di nuovo in diretta dalla Space Music di Acireale tra le 21 e le 23. Questa volta ci sarà ancora con noi Salvo Rapisarda, ma ci sarà soprattutto, ritroviamo il nostro caro Marco Bertani. Ma si chiama Bertani, Salvo? Io sapevo che si chiamava Turi. Lo chiamiamo Turi, sì, però ufficialmente sarebbe Salvo. Bene, io direi se ci siamo, perché ormai così noi ci siamo quasi ormai, ci stiamo autolicenziando, sono le 23 e direi che è il momento proprio davvero di dare la buonanotte ai nostri ascoltatori.